La notte fatta per amare, ma per chi è solo come me. La notte fatta per soffrire e ricordare chi non c'è. C'è un silenzio che fa male, adesso che non ci sei più. Che non ci sei più.